Componimento ventesimo dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è nel dominio pubblico. Il risorgimento. Credei ch'al tutto fossero in me sul fior degli anni mancati i dolci affanni della mia prima età. I dolci affanni, i teneri moti del cor profondo, qualunque cosa al mondo grato il sentir ci fa. Quante querele e lacrime sparsi nel novo stato, quando al mio cor gelato prima il dolor mancò, mancar gli usati palpiti. L'amor mi venne meno e rigidito il seno di sospirar cessò. Piansi spogliata, esanime, fatta per me la vita, la terra inaridita, chiusa in eterno gel. Deserto il dì, la tacita, notte più sola e bruna, spenta per me la luna, spente le stelle in ciel. Pur di quel pianto origine era l'antico affetto. Nell'intimo del petto ancor viveva il cor. Chiedea l'usate immagini la stanca fantasia e la tristezza mia era dolore ancor. Fra poco in me quell'ultimo dolore anco fu spento e di più far lamento valor non mi restò. Giacqui insensato, attonito, non dimandai conforto. Quasi perduto e morto, il cor s'abbandonò. Qual fui, quando dissimile da quel che tanto ardore, che sì beato errore, nutrii nell'alma un dì? La rondinella vigile, alle finestre intorno, cantando al nuovo giorno, il cor non mi ferì. Non all'autunno pallido, in solitaria villa, la vespertina squilla il fuggitivo sol. Invan brillare il vespero, vidi per muto calle. Invan sonò la valle del flebile usignol. E voi, pupille tenere, sguardi furtivi, erranti, voi, de gentili amanti, primo immortale amor, e dalla mano offertami, candida, ignuda mano, foste voi pure in vano al duro mio sopor. D'ogni dolcezza vedovo, tristo, ma non turbato, ma placido il mio stato, il volto era seren. Desiderato il termine avrei del viver mio, ma spento era il desio nello spossato sen. Qual dell'età decrepita l'avanzo ignudo e vile io conducea l'aprile degli anni miei così. Così quegli ineffabili giorni o mio cor traevi che sì fugaci e brevi il cielo a noi sortì. Chi dalla grave immemore quiete or mi ridesta? Che virtù nuova è questa, questa che sento in me? Moti soavi, immagini, palpiti, error beato, per sempre a voi negato questo mio cor non è? Siete pur voi quell'unica luce dei giorni miei, gli affetti ch'io perdei nella novella età? Se al ciel sai verdi margini, ovunque il guardo mira, tutto un dolor mi spira, tutto un piacer mi dà. Meco ritorna a vivere la piaggia, il bosco, il monte, parla al mio core il fonte, meco favella il mar. Chi mi ridona il piangere dopo cotanto oblio? E come al guardo mio cangiato il mondo appar? Forse la speme, o povero mio cor, ti volse un riso? Ahi, della speme il viso io non vedrò mai più. Propri mi diede i palpiti natura e i dolci inganni. Sopiro in me gli affanni, l'ingenita virtù. Non l'annullar, non vinsela il fato e la sventura. Non con la vista impura, l'infausta verità. Dalle mie vaghe immagini so ben che la discorda. So che natura è sorda, che miserar non sa, che non del ben sollecita fu, ma dell'esser solo. Purché ci serbi al duolo, or d'altro a lei non cal. So che pietà fra gli uomini il misero non trova, che lui, fuggendo a prova, schernisce ogni mortal, che ignora il tristo secolo, gli ingegni e le virtudi, che manca ai degni studi l'ignuda gloria ancor. E voi, pupille tremule, voi, raggio sovrumano, so che splendete invano, che in voi non brilla amor. Nessuno ignoto ed intimo affetto in voi non brilla, non chiude una favilla quel bianco petto in sé, anzi d'altrui le tenere cure suol porre in gioco, ed un celeste loco disprezzo è la mercè. Pur sento in me rivivere gli inganni aperti e noti, ed e suoi propri moti si maraviglia il sen. Da te, mio cor, quest'ultimo spirto e l'ardor natio, ogni conforto mio, solo da te mi vien. Mancano il sento all'anima alta, gentile e pura, la sorte, la natura, il mondo e la beltà. Ma se tu vivi, o misero, se non concedi al fato, non chiamerò spietato chi lo spirar mi dà. Fine del componimento 20.